Eccoci qui al sesto episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast sui giochi da tavola gestito da dimostratori. È il sesto episodio, vero? Sì. Ok. Siamo Pietro e Claudio, come tutte le volte, e pronti qui a parlare per circa tre quarti d'ora, un'oretta di giochi da tavolo. Claudio, ci sei? Sì, perché c'è sempre questa grande fretta di chiudere prima di un'ora senza alcun motivo. No, non è una questione di fretta di chiudere, è che non rispondi, non so se ci sei. Comunque, l'episodio di oggi vi avevamo promesso la scorsa puntata che avremmo avuto un tema elettrizzante e quindi Claudio ha scelto un tema elettrizzante, giustamente, pochi minuti prima di andare in onda. E, avanti, esponi il tema. Pochi acri di neve. No? No, quello è il titolo di un gioco. Ecco. Niente, oggi si parlerà di qualcosa di molto semplice. Esporremo un gioco da tavola, subito dopo anche una sua espansione, per dare un'idea un po' più precisa del gioco, che magari può aggiungere un po' più di pepe, di sale al gioco, l'espansione in sé, o forse anche no. Dipende, perché a volte le espansioni sono essenziali, come altre volte possono essere qualcosina in più, oppure diverse volte anche abbastanza inutili, poi dipende dal caso. Quindi insomma un episodio quasi monografico. Io porto un gioco e tutte le sue sfaccettature, tu porti un gioco e tutte le sue sfaccettature, no? Sì, è qualcosa di molto generico, considerando che ci sono un sacco di giochi che hanno espansioni, Che quindi. hanno sfaccettature. Quindi può uscire qualunque titolo stasera. Qualunque titolo. Quindi giriamo la ruota dei titoli. E partiamo. Concordia. No, Oh. hai tirato fuori la ruota e ruota era Concordia e la meccanica. sua espansione è salsa. No, Esatto. ok, va bene. Mettiamo Concordia in un angolo e Claudio, questa volta inizi tu perché l'altra volta ho iniziato io, almeno così ricordo. Ok, a te comincio sempre io, quindi non c'è neanche da decidere. Perché è giusto così? È perché ci porti prima dei piani alti e caldi della serata. Dunque, il gioco in questione di stasera è un titolo uscito 2 anni fa, bensì nel 2014, che a mio punto di vista è passato un po' sottotono, nel senso che, ok, ha avuto una bella presentazione, ha una grafica assurda, è veramente bella. Si vede spesso, cioè almeno su internet si trovano diverse immagini perché comunque è molto bello graficamente, ma è molto raro, almeno è stato dal mio punto di vista, vederlo giocare. E quindi o è un gioco che si sono comprati tutti ma non giocano spesso, oppure è un gioco che non è stato poi così tanto venduto come sembra. Probabilmente più la prima che la seconda, però è un gioco che secondo me è stato lasciato abbastanza in ombra. Eppure non è un gioco così brutto, non è neanche un capolavoro, però è un gioco abbastanza simpatico. E si parla di Abyss, di Bruno Catala e di Charles Oh, Chevalier. Bruno Catala e Charles Chevalier insieme. Catala forse, Catala, Catala, Bruno, Catala, francese. chiamalo Bruno, facciamo prima, che No, di Bruno ce n'è un altro, però. è il Faidutti, dei due Bruno abbiamo già parlato qualche episodio fa. Cos'è Abyss? Allora, innanzitutto andiamo a vedere la copertina del gioco, perché se andiamo a cercare l'immagine troveremo 5 copertine differenti, Eh sì, eh. ok? Sì, che semplicemente che c'è. È una piccola differenza, tutto il resto del gioco è uguale, però questa cosa ricorda molto il gioco Warcraft 3, perché la copertina presenta la faccia di praticamente una razza e in Warcraft 3 c'erano tutte le copertine diverse con la razza di ogni cioè con la faccia di un personaggio di ogni razza del gioco, mentre qui abbiamo le facce di ogni, Casta. diciamo, casta sociale del gioco, di queste creature che vivono sotto il mare. Però attenzione, non è qualcosa di. Non è un sotto al mare tutto fantasy felice, è un po' più storie di pesca, di commerci, di contrabbando, di giri di monete, diciamo. È più un gioco me sulla mercanzia sotto al mare, però si presenta con questi faccioni molto belli da uomini pesce. Quindi abbiamo cinque tipi di copertine divise in colori: c'è la razza gialla, la blu, la viola, la rossa e la verde, che sono le caste, come abbiamo già detto. Per esempio, la blu sono i nobili, che è quella più comune che si trova sul mercato. Se non ricordo male, le più comuni dovrebbero essere tipo la blu, la rossa, poi la verde. La rossa, la viola e la gialla sono un po' più rare da trovare di solito, ma alla fine dei conti non cambia nulla, tanto il gioco è sempre quello, a meno che non siete dei collezionisti puri e volete avere tutte le versioni del gioco. Ma Direte passiamo, sì. chi è il pazzo che spende 200 euro solo per avere quattro scatole diverse? Scusa, e andate su internet, scrivete Abyss All the Boxes e li trovate. Scusate se in ascolto c'è uno di queste persone. Chiedo scusa, non volevo darvi del pazzo. No, vabbè, se cercate trovate anche Bruno Catala che fa la faccia incazzata insieme alla copertina del gioco, Hai detto una parolaccia, cavolo, adesso mi tocca bipparti. perché Bruno Catala è una persona cattiva. Vabbè, Catala. Comunque, Abyss. Allora, è un gioco da 2 a 4 giocatori. Io l'ho provato in 3 e 4, in 2 non l'ho mai giocato, ma suppongo che in 2 sia. Non lo so, non mi dà una grande impressione forse di un giocatore, probabilmente è meglio in 3 o 4. Più si è, meglio è, perché è anche un gioco, diciamo, dove c'è una sorta di mercato comune di favoritismi di questi personaggi. Perché ognuno dei giocatori ha modo nel suo turno di compiere diverse azioni, in questa bellissima plancia che è praticamente, diciamo, l'edificio che contiene i nobili più influenti di questo mondo sottomarino. E quindi noi nel nostro turno avremo questa plancia che presenta una fila di nobili che sono disponibili nel nostro turno. Se noi abbiamo abbastanza materie di scambio o perle, che sono praticamente la moneta del gioco, potremo acquistarne uno nel nostro turno. E questi nobili sono la fonte che porterà sia alla fine della partita e si porterà anche ad avere i punti vittoria, perché ognuno di questi personaggi ha un valore di punti che ti darà a fine partita. Ha un effetto che si attiva appena è comprato, che può essere monouso o continuo, a differenza del tipo di personaggio che è stato acquistato. E a volte ha anche dei simboli chiave. Significa che se il giocatore possiede tre chiavi, che sono dei token, ma possono anche essere attribuiti alla carta, quindi semplicemente tu hai tre carte con il simbolo chiave, vuol dire che hai tre chiavi. Se un giocatore arriva ad avere tre chiavi durante la partita, può ottenere un territorio. Ci sono anche dei territori che il giocatore riesce praticamente a comprare o a farsi dare da questi nobili, che danno altri punti extra a fine partita, moltiplicando certe condizioni di gioco. Però, se questo territorio viene ottenuto usando le chiavi disegnate sulla carta dei nobili, questi nobili verranno messi dentro al territorio e perderanno il loro potere, perché vengono usati per accedere al territorio. E ci sono diversi tipi di territori che si basano sulle varie caste: cioè c'è quello che dà più punti se si hanno più politici, c'è quello che dà più punti se si ha questo, oppure dà un tot di punti meno ogni nobile presente nella tua mano, diciamo, e così via. Quindi una delle fasi che si può fare è comprare il favore di uno di questi personaggi influenti. Inoltre, noi durante il gioco avremo questo pratico portaperle molto carino che tiene le nostre monete, sono delle perline proprio, perline bianche. Se non ricordo male, si parte forse con una perla, forse no, adesso non mi ricordo, ma forse non si parte neanche. Comunque, le perle vengono tenute lì. E queste vengono spese quindi per o comprare i nobili oppure comprare, diciamo, quello che viene pescato dagli altri giocatori. Inoltre, queste perle possiamo anche usarne una nel nostro turno per far uscire un nuovo nobile dal mazzo e metterlo nella fila dei nobili disponibili che possono essere acquistati. Cosa che non succede mai. Ma ti dirò, dato che dopo si parlerà anche dell'espansione, e io l'ho giocata da poco l'espansione, è successo più volte nella partita con l'espansione questa cosa. Perché aggiunge una meccanica che diciamo che cambia un po' le cose in fattore di perle, diciamo. Poi dopo ci arriveremo anche a questo. Nel gioco base è un po' più raro che succeda. Con l'espansione succede, secondo me succede molto più spesso di riempire, diciamo, la fila dei personaggi influenti. Dopodiché, altre azioni che possiamo fare, andare a pescare. Allora, detto così, prendi l'amo e ti metti lì sullo scoglio e ti peschi qualcosa, ma in realtà non è così stupida la cosa. Ci sarà un mazzo di pesca che contiene alleati. Gli alleati sono creature marine di 5 colori differenti. Possono essere granchi, colore rosso, polipi, colore blu e così via, che hanno un valore da 1 a 5 punti. Più il valore è alto, e meglio è, perché questi alleati sono anche la materia di scambio che tu usi per pagare i personaggi influenti. Ti faccio un esempio: se un personaggio influente è un personaggio rosso e costa 9, vuol dire che ci vogliono un tot di carte rosse che arrivano a un valore di 9, quindi per esempio un granchio da 5, un granchio da 4. Però volendo si possono spendere le perle per dare un valore aggiuntivo, quindi io posso anche spendere un granchio da 5, un granchio da 3 e una perla e arrivo a 9. E lo posso acquistare. Altri nobili invece possono richiedere il loro colore più colori aggiuntivi generici, quindi a scelta. Per esempio, un personaggio rosso che però chiede un colore aggiuntivo vuol dire che devi giocare almeno una carta rossa e una di un altro colore per acquistarlo. Comunque, la fase di pesca funziona così: si possono pescare fino a 5 carte, si gira la prima. Appena tu la giri, il giocatore successivo può decidere di comprarla al costo di una perla, se no la può comprare il giocatore dopo. Se nessuno la compra, puoi tenerla tu o andare avanti con la pesca. Appena un giocatore compra, il giocatore dopo dovrà pagare una perla in più per comprare la prossima carta. E il giocatore che ha già comprato non compra più in questa pesca. Se si arriva a giocare la quinta carta e nessuno la cioè, la quinta carta, quella va presa per forza, si ottiene anche una perla. Le carte rimanenti nella pesca, nella rete, che non sono state acquistate, vengono messe al centro della plancia e saranno disponibili nel turno, però coperte. Cioè, tutte le carte gialle vanno messe in una pila, tutte le carte rosse in un'altra pila e così via. Un'altra delle azioni che possiamo fare, appunto, è ottenere alleati da questa pila. Cioè, io invece che comprare nobili o andare a pescare, prendo direttamente una pila di questi alleati che sono rimasti lì dalla pesca precedente e me li metto subito nella mia mano. Queste sono le azioni di gioco. Quindi i punti si fanno con i territori, con i nobili. La partita si conclude appena un giocatore ha comprato il favore di un settimo personaggio influente, dopodiché tutti gli altri giocatori hanno a disposizione un ultimo turno, e in soldoni il gioco è questo: è un gioco di mercanzie, anche abbastanza tattico, non comprende cose come dadi, semplicemente token o cose del genere. Ho dimenticato la fase dei mostri marini. Nella fase di pesca si possono incontrare mostri marini che attivano una piccola plancetta che può darti altri bonus tipo chiavi aggiuntive, perle o punti vittoria. Se, come, se eviti il mostro, la ricompensa di chi affronterà il mostro diventa sempre più grossa. Esatto, praticamente invece che se tu invece che pescare un alleato hai pescato un mostro, puoi decidere di affrontarlo e quindi ottenere la ricompensa di quella plancia laterale che è fuori dal Sì, gioco. al livello in cui è arrivato. Oppure lo eviti, e se lo eviti la plancia avanza e dopo la ricompensa sarà maggiore per il prossimo che affronterà un nuovo mostro. E se eviti il mostro, peschi un'altra carta. Quindi, se peschi due mostri di fila, il primo ti alza la posta e il secondo potresti affrontarlo per beccarti la posta. Sì, nella maggior parte delle partite che ho giocato ad Abyss non l'ho mai vista arrivare fino in fondo la plancia No. delle ricompense, perché di solito uno o lo affronta subito o lo affronta dopo essere scappato una o due volte, perché comunque le ricompense sono molto, molto buone e golose. Però io ho visto uscire tre mostri di fila, allo stesso giocatore che ovviamente al terzo mostro ha incassato il Beh. premione, che era tipo due perle, una chiave, era un bel premio. Eh sì. Niente, quindi è un giochino di mercanzie, una grafica veramente bella, direi stupenda. Sì. È un gioco che si fa vedere molto bene. Durata, io direi 3 quarti d'ora. Mezz'ora, 3 quarti d'ora. Se proprio si va spediti, lo si conosce bene, anche in mezz'ora, ma in media 3 quarti d'ora, secondo me. E giocandolo con l'espansione, che poi dopo ne parlerò, il gioco dura uguale. Cioè, l'espansione aggiunge delle cose, ma la durata del gioco è uguale identica. Massimo 5 minuti in più. Quindi, adesso, come vogliamo andare avanti? Parlo anche dell'espansione o parli tu di un altro gioco? Forse non ha senso alternarci, visto che siamo già sull'argomento, io continuerei. Giusto una cosa. Stavo guardando l'illustratore e ha fatto anche, ad esempio, un'espansione di Dixit, Dixit 3, che pensa, e che è uno stile completamente diverso da quello di Abyss, ovviamente, ma perché è Dixit? Può darsi che in Dixit 3 sia pieno di polipi e creature marine. Adesso bisogna andare a dare un'occhiata, magari. Ah, ed è anche l'illustratore di Mysterium. Eh beh, accidenti, è bravo, eh. Che sarebbe il sesto senso, comunque Sì, di Mysterium. è la nuova Esatto. edizione del Sesto Senso, quella che hai visto anche tu, perché le due edizioni hanno i disegni diversi. Ed è anche il disegnatore di Timeline, ecco, le magnifiche carte di Timeline con le persone che fanno facce assurde, le ha disegnate lo stesso illustratore di Abyss. Che sono molto belle anche quelle. Infatti si vede che è Sì, un. È un che signor artista ha uno questo. stile molto da fumetto realistico, molto bravo. E quindi questo è Abyss Base. Mi ha stupito il fatto che questo gioco non sia. No, cioè, non l'ho visto quasi mai. Non è stupendo, però si gioca tranquillamente e dura poco. Quindi è un buon gioco per le serate, perché dura anche. Secondo me non dura tanto. Cioè, se un gioco sta sotto un'ora di gioco, è un gioco che dura poco, secondo me. Cioè, no, che ci sta a giocarlo, perché comunque non dura tanto. Ma in realtà Abyss in Italia dovrebbe essere andata abbastanza bene. Come si dice? Non mi viene la parola. Ecco, l'editore italiano è l'Asterion, il distributore italiano. E da quello che sapevo, Abyss era un titolo di. A quando è uscito, in quell'anno in cui è uscito, è stato un titolo di punta. Poi magari. È passato qualche anno e quindi Sono passati magari 2 anni. è uno di quei giochi che dopo un po' stufa, non è uno di quelli che rivedrai nei tavoli all'infinito tipo Puerto Rico, che vabbè, stufa anche questo. Ma in realtà anche Puerto Rico ha perso un po', sì. No, capisco questa cosa, però dal mio punto di vista, se io avessi il gioco, perché questo non ce l'ho, una volta al mese lo potrei giocare tranquillamente. Tra l'altro il costo di Abyss è 40 euro più o meno, dopo dipende da dove lo si compra, però Sì, il prezzo è abbastanza normale per quello che tiene dentro, dai. sì, dai, Cioè. insomma, forse un pochino meno poteva essere, però le perle, i bicchieri portaperle sono componenti particolari che richiedono altre produzioni oltre alle fustelle e le carte, insomma, quando un gioco ha dei componenti che richiedono una produzione diversa da una carteria cartiera, da una. Vabbè. Il costo aumenta perché c'è in mezzo una fase di produzione aggiuntiva. Sì, va bene, passiamo all'espansione. Espansione si chiama Kraken. È abbastanza piccola, cioè una scatola rettangolare tipo quella di Dio Monster. Posso dire una cosa? Sì. Allora, nella base la copertina è molto bella, il fatto che nella copertina non ci sia scritto Abyss, Abyss è scritto di fianco, no? E c'è solo il Sì. fondo. Nell'espansione questo effetto rende malissimo. Perché? Sì, e poi è anche abbastanza strana la scatola dell'espansione. Cioè. Perché il disegno è troppo complicato, non è una faccia. E quindi tu vedi questa scatola senza il nome del gioco e non capisci che è un gioco da tavola. Adesso, vabbè, in un negozio di giochi lo capisci. Quando da noi in associazione hanno visto quella scatola, la gente diceva: ah, cos'è un gioco di ruolo? Cos'è un portadadi? No, ma no, anche perché nella copertina non c'è scritto nulla davanti, c'è solo l'immagine. Sì, è scritto di lato Abyss Kraken. Sì, come nel gioco base, però il gioco base lo noti che è un gioco. Questo qui sembra un'altra cosa, effettivamente. Esatto, questa cosa purtroppo nell'espansione non rende a livello di design. Però l'immagine è molto bella, eh? Quella No, no. sì. Il disegno è sempre bellissimo, tutto quello che vuoi, però. E va bene, allora, espansione Kraken. Questa è uscita l'anno dopo, il 2015. Questa è sempre 2-4 giocatori, non aggiunge giocatori. Questa, attenzione, l'ho provata solo in 3 per adesso, perché io più che altro ho giocato il base di Abyss, però poco tempo fa ho giocato anche l'espansione. Allora, che cosa aggiunge principalmente? Aggiunge 7 nuovi tipi di personaggi, cioè i personaggi influenti, possiamo definirli alleati se vogliamo, che sono i contrabbandieri praticamente. No, scusatemi, 18 di quelli. Gli alleati sono gli animaletti, sono il polipo. Aggiunge 7 carte nuove di quelli lì, che sono dello stesso tipo e sono dei Kraken. A posto del blu, del rosso, zero sono le carte nere, che sono le carte Kraken. 18 contrabbandieri, che però in realtà alcuni sono In realtà sono meno. Sono alcuni contrabbandieri e aggiungete, mi sembra, tipo due di ogni altro colore del base. Però c'è anche un nuovo colore di personaggi influenti. Tre token sentinella, perché tre di questi personaggi qui hanno dei poteri speciali che se tu compri ottieni un token che ti fa fare certe cose nel turno. Sei nuovi territori. E poi ci sono le carte tesoro, che si attivano con certi territori. I Nebulis, che sono le perle nere. Adesso non abbiamo solo le perle bianche, abbiamo anche le nere, anche se in realtà sono grigie metallizzate, ma sono perle nere in realtà. La miniatura del Kraken, il porta perle nere trasparente e il regolamento. Allora, andiamo a vedere tutte queste cose molto velocemente. I nuovi alleati cosa sono? Sono, invece che polipi blu da 1 a 5 o granchi rossi da 1 a 5, sono Kraken da 1 a 5, carte nere che rappresentano un Kraken. E più il valore è alto, più perle nere hanno disegnate di fianco. Esempio, il Kraken da 3 mi sembra abbia due perle nere di fianco, una cosa simile. Questi sono alleati jolly, cioè io quando li gioco valgono il colore che voglio io. Quindi se voglio comprare un nobile rosso, posso anche giocare un nobile rosso da 6, posso anche giocare due Kraken da 3. Li faccio diventare rossi. No, sì, sembra funzioni così. Li faccio diventare rossi e lo compro. Però appena io gioco queste carte ottengo quelle perle nere disegnate di fianco. Quindi se io gioco due Kraken da 3, ognuno dei due ha disegnato due perle nere, ottengo quattro perle nere, che sono i Nebulis. Che cosa sono i Nebulis? Sono i soldi sporchi, diciamo, quelli usati per il contrabbando. E questi a fine partita ci daranno dei punti negativi. Ed è fatica anche sbarazzarsene durante la partita di queste perle nere, quindi bisogna cercare di prenderne il meno possibile, anche perché il giocatore che nel turno arriva a avere più perle nere o uguali a quello che ne ha di più in quel momento, ottiene la miniatura del Kraken, che praticamente ti dice che tu adesso sei il giocatore che ha più perle nere. E se tu hai la miniatura del Kraken a fine partita con te, fai 5 punti vittoria in meno. Più un punto vittoria in meno per ogni Nebulis che hai ancora, che ancora non avevi speso. Per esempio, nella partita che ho giocato con l'espansione Kraken, il giocatore che aveva più Nebulis ha fatto meno 11 punti vittoria a fine partita, che sono parecchi. Quindi attenzione con queste perle nere, che si ottengono solo se o giochiamo carte Kraken, o a fine partita sono rimaste in mano delle carte Kraken e ci danno le perle nere che hanno disegnato sopra, oppure un giocatore ci paga con le perle nere quando peschiamo. Però attenzione, lui ci può pagare con le perle nere solo se ha perle nere, se no si deve dare con le bianche prima. Quando peschiamo, ti compra la cosa che hai pescato, ti può dare la perla nera in cambio se ha solo perle nere. Scusa, Le perle, sì. scusatemi il mio raffreddore. Però di queste te ne può dare solo una. Quindi se deve pagarti due perle e ha solo perle nere, non può comprare. Mentre. Se vogliamo comprare dei nobili usando le perle nere per aumentare i numeri, ne possiamo usare solo una. E le perle nere non possono essere usate per girare nuovi nobili nella plancia centrale. Questi sono i Nebulis. E ognuno di questi vale un punto vittoria in meno a fine partita se non sono stati spesi. I nuovi personaggi, proviamo principalmente dei contrabbandieri, hanno tutti poteri che si basano sul, diciamo, questa meccanica dei Nebulis. Per dire, ce n'è uno che se ce l'hai con il potere attivo a fine partita i Nebulis non ti valgono punti negativi. Tre di questi, se vengono presi, ti danno un token loro e questo token tu lo puoi giocare nel tuo turno per, come si dice, per enotarti o un nobile o una pila di alleati che se tu l'hai prenotata, finché tu hai quel token lì sopra, nessun altro può comprare o prendere. E appena tu prendi la cosa che hai prenotato, il tuo token torna disponibile per prenotare un'altra cosa. Le nuove locazioni aggiungono meccaniche particolari, principalmente ci sono, diciamo, le zone con il tesoro, che hanno il simbolo della cassa. Quando tu trovi una di queste, peschi dal mazzo delle carte tesoro, che ha aggiunto anche questa all'espansione, una carta. E viene fuori un giochino alla blackjack, cioè tu tiri fuori una carta con un numero che va da 1 a 7. che sono i punti vittoria che ti fa che varrà quel territorio, perché il territorio che tu peschi vale i punti che ti dà le carte tesoro che ci metti sopra. Tu giri una carta, tipo giriamo la 3, poi ne giri un'altra, giri una 4, ne giri un'altra, giri una 5. Tu ottieni il bonus di quella carta, perché hanno anche dei simboli sopra, tipo perle o chiavi, più i punti vittoria che sono sopra scritti sono i punti vittoria che varrà il territorio che hai appena comprato. Però appena tu giri un numero che è già girato, quei due numeri lì li scarti, finisce la pesca e ti tieni quello che ti è rimasto. Quindi se io ho girato un 3, un 4, un 5 e un altro 3, scarto i 2 3 e quel territorio mi vale 9 punti vittoria adesso perché mi sono rimasti il 5 e il 4. E basta, queste qui sono le cose aggiuntive. Come dicevo prima, non aggiunge più tempo al gioco. Il gioco si gioca bene o male allo stesso modo. Però il fattore che tu hai le perle nere e le vuoi dare via ti induce a spendere prima quelle bianche, per quello che dicevo che in questo caso col Kraken, molto spesso nel turno il giocatore spende la perla bianca per aggiungere un personaggio alla plancia da acquistare, perché così dopo hai solo perle nere e puoi dare via quelle nel commercio, perché sono fastidiosissime. Quindi giova molto a quell'azione, questa espansione, secondo me. Ed è molto più da prendere con le pinze il gioco perché le perle nere arriverà il punto in cui tanto prima o poi ce le hanno tutti. Perché tanto se tu non usi carte Kraken, nel mercato ti pagano con quelle prima o poi. E quindi alla fine dei conti, qualche punto negativo molto probabilmente lo fai a fine partita. Anche se ne fai pochi, li fai. È un'espansione che ci può stare, non è essenziale dal mio punto di vista. Cioè, è bella, attenzione, però il gioco si può giocare anche senza. Non è che senza la meccanica delle perle nere non è un gioco che merita o è un gioco a metà. No, è un gioco completo anche senza. Però volendo si può comprare anche l'espansione. Mi pare che costi 20 euro, bene o male. Sì, è sui 20. E semplice, tranquilla. Se non siete persone con le mani imburrate o scivolose, non dovreste avere problemi con le perle. Per il resto, Abyss è un gioco abbastanza bellino. E l'espansione ci può stare. Magari non subito, dopo aver giocato tante partite, se vuoi cambiare un po', si può comprare anche l'espansione. E questo, io ho detto tutto per stasera. Ok. Scusatevi, ma il raffreddore mi sta uccidendo. Ok. Bene, e questo è Abyss. Una cosa positiva, molto positiva, che mi ha colpito di Abyss, senza l'espansione, perché l'espansione non l'ho mai provata, quindi non posso dire niente, è che Abyss è un gioco grosso, diciamo, più di un film, non è un film, è un gioco, dai, corposo. Di medio livello, cioè allora. Sì. Abbastanza corposo, eppure dura solo un'oretta. E quindi è ottimo. E ce ne sono altri, per carità, così. Però Abyss ha un è proprio è un pacchetto completo come gioco. Ok. Claudio, c'è ancora? Ok, c'è ancora. Perché adesso tocca a me, quindi devi starmi ad ascoltare, ed è molto importante che tu ci sia. Perché, come vi prometto fin dal primo episodio, questa è la sera in cui parlerò di probabilmente quello che è il mio gioco preferito, ovvero il bellissimo Ghost Stories di Antoine Bauza e delle sue due espansioni e delle varie promo, perché di Ghost Stories, appunto, ho provato tutte le sfaccettature e mi piacciono da morire. Allora, partiamo da Ghost Stories. Innanzitutto ci ricolleghiamo a quello che ha detto Claudio prima, che diceva che Abyss senza Kraken non è un gioco a metà. Ecco, Ghost Stories senza la prima espansione White Moon è un gioco a metà. Analizziamo il gioco base. Allora, Ghost Stories, gioco del 2008, edizione originale della Repos Games, è un cooperativo fino a 4 giocatori, dove i giocatori vanno a interpretare dei taoisti che devono proteggere il villaggio dall'attacco delle orde di fantasmi guidate dal perfido Wu Feng, che è questo stregone malefico morto da un sacco di tempo che vuole rifarsi contro la città, contro il villaggio, in questa nottata di terrore. Ogni giocatore sceglie un taoista di un colore e avrà la rispettiva plancia che copre uno dei quattro angoli della città. La città viene costruita con dei tile che rappresentano i vari edifici e formano una griglia, e ogni lato della griglia è coperto da uno dei taoisti con la sua plancia, che dove entreranno i fantasmi. Quindi abbiamo una sorta di protezione del villaggio alla Sette Samurai, per chi lo conosce. Allora, i taoisti girano per la mappa e principalmente possono fare due cose. Possono utilizzare le tessere del villaggio e il favore degli abitanti, e quindi il favore de degli abitanti rappresentati, per modificare la condizione della plancia o la posizione dei mostri, oppure possono tentare un esorcismo. L'esorcismo funziona con molta, molta fortuna, che è una delle cose più criticate del gioco. Praticamente ci sono questi dadi che hanno delle facce colorate. Una faccia per il colore di ogni taoista e quindi di ogni mostro, rosso, blu, giallo e verde, una faccia nera e una faccia bianca che è il jolly. Quando tu vai a combattere contro un mostro, tiri due dadi e i risultati sono le ferite del colore che faresti. Quindi, ad esempio, se combatti con un mostro rosso con due di vita e fai due rossi e un rosso e un bianco, di base l'hai sconfitto. Se invece fai due blu, non gli hai fatto niente. Poi dopo si può improvare questo attacco con dei segnalini, con delle abilità e così via. Per il resto, ogni taoista ha la sua abilità differente, c'è chi si muove di più o può far anzi, ogni taoista ha due abilità e all'inizio partita può decidere quale avere. C'è quello improntato sull'avere i potenziamenti e indebolire i mostri, quello improntato sul muoversi di più lui o muovere di più gli altri, quello improntato sul fare più azioni e quello improntato sull'avere più dadi, o sull'avere più dadi e non tirare il dado negativo, oppure avere dei reroll. Poi, il turno funziona in questo modo. La primissima cosa che si fa è pescare un mostro dalla pila dei mostri. Questo mostro viene messo nella plancia, del colore, del suo colore. Quindi se viene un mostro rosso, il giocatore rosso lo mette nella sua plancia in uno dei tre posti, liberi. Perché dopodiché, a un certo punto, il gioco si verrà a intasare. Se tutti i posti sono occupati, ti becchi una ferita. Il mostro viene messo comunque da un altro giocatore, quindi il gioco si intasa. E poi viene piazzato il mostro. A questo punto, il giocatore fa il suo turno. E, ah no, allora, scusate, viene piazzato il mostro. Tutti i mostri sulla sua plancia che hanno una capacità speciale, e nel base c'è soltanto i camminatori, sono stati i camminatori, fanno la loro azione, dopodiché si torna il giocatore. I camminatori sono questi fantasmi che hanno anche la miniatura, perché hanno due fasi. Il primo turno, che sono in gioco da quando sono entrati, avanzano di uno e basta nel base. Il secondo turno infestano la tessera del villaggio. La tessera del villaggio, davanti, rispettivamente davanti al fantasma, viene infestata e girata, non si può più usare la sua abilità, e quando si raggiunge quattro tessere infestate, i giocatori hanno perso. Dopodiché il camminatore torna all'inizio e si rifà altri due passi e infesta la prima tessera in linea di vista e così via. Quindi non si può neanche lasciare lì dicendo ah, ormai ha fatto, perché ricomincia da capo. Poi dopo, nelle varie espansioni, vengono aggiunte altre abilità che si attivano dopo l'entrata dei fantasmi. Per il resto, cosa è rimasto a dire del base? Niente di particolare, a parte ovviamente le regole nello specifico. I modi in cui si perde, i modi in cui si vince. Allora, dicevo, con le tessere infestate del villaggio, oppure se muoiono tutti i taoisti, e basta, nel base sono solo queste. Ah, oppure finisce il mazzo dei fantasmi e non si è riusciti a sconfiggere Wu Feng. Perché invece, come vincono i taoisti? A 10 carte dalla fine del mazzo dei fantasmi c'è un'incarnazione di Wu Feng, un boss che viene pescato da un mazzo apposito all'inizio partita e rimane coperto, quindi non si sa chi è finché non entra in gioco. L'incarnazione di Wu Feng è un mostro di un colore, o a volte in colore o multicolore, molto potente, con un'abilità molto potente. E di base si hanno 10 turni per sconfiggerlo. Se non ci si riesce, i giocatori hanno perso. Ok, il gioco base è criticato principalmente per due motivi: molto difficile e c'è molta fortuna. Le critiche che fa la gente di solito sono che il finale del gioco non è molto facile. pathos perché tutto si decide con un lancio di dadi di solito e se quel lancio è perso hai perso la partita. Era Che a mio punto di vista è ridicolo, perché il fatto è dato dal fatto che hai 10 turni per batterlo, e 10 non sono tanti, e continuano a uscire mostri. Quello è Fatos. Cioè, ho capito che dovrei tirargli un dado, però tu hai 10 turni per farlo fuori. Se posso dire la mia, praticamente tutti i giochi da tavolo sono così, quindi la gente che fa questa critica avrà gli occhi coperti. No, e poi, scusa un momento, ok, devi tirare i dadi, però hai i potenziamenti, cioè puoi provare con i vari token, in realtà puoi anche minimizzarlo un pochino la fortuna, non è totalmente fortuna. No, infatti è successo delle volte che, perché le vostre storie si abbiamo giocato tantissime volte, delle partite sono finite. Che Wufeng è stato battuto senza dadi, cioè avevamo talmente tanti segnalini di bonus che non abbiamo neanche il risultato dei dadi se serviva per battere Wufeng. Quindi, cioè, alla fine dei conti non è tutta fortuna. No, Se hai giocato bene, non è tutta fortuna. c'è molta fortuna nell'ordine in cui escono i mostri, cioè, a Sì, ma. volte esce proprio il mostro sbagliato al momento sbagliato, però. Ok, ma quello è giusto perché il gioco non deve essere ripetitivo, deve Certo, avere delle variabili. certo, certo. Però dire che il gioco è brutto perché lo scontro finale si risolve con tiro di dadi mi sembra un po' una sciocchezza, però ognuno ha la sua opinione. L'altra critica che viene fatta, che invece è un po' più realistica, è che spesso e volentieri un giocatore si ritrova a fare la stessa cosa all'infinito. Per esempio, il giocatore blu che ha la capacità di attivare due volte la stessa tessera del villaggio può passare metà partita a fare tutti i suoi turni nello stesso modo, ovvero attivando due volte la stessa tessera del villaggio. Ok. Allora, sì e no, perché le teste del villaggio quasi tutte hanno anche un malus oltre a un bonus, cioè ti danno qualcosa di buono, ma fai anche tiri il dado nero per dire, e, per fare un esempio. Quindi non lo puoi fare poi così tante volte, perdere vita o tirare il dado nero. E, più che altro, la tessera del villaggio che si possono usare di più sono quella del Buddha, però anche il Buddha non è che è sempre carica, che ha tutti e due Buddha a disposizione. Oh sì, no, ecco, forse la combo più co comune è che il giocatore blu passa tutto il suo tempo a raccattare i Buddha dalla tessera che dai Buddha. Io credo che questa cosa si faccia solo se nella partita ci sia il classico leader che dà ordine agli altri giocatori, perché Ecco. se il giocatore blu è indipendente, non penso che faccia. Cioè, ho capito che è un cooperativo e bisogna sopravvivere, ma un giocatore non è invogliato a farsi questa cosa, di solito è perché gli viene detta dal leader, perché intanto è spesso nei giochi cooperativi, c'è sempre, cioè, può succedere che sia un giocatore che conosce bene il gioco e dà ordine agli altri su come vincere. E questo è una cosa negativa del gioco di solito. Cioè, Infatti, negativa dal giocatore, non del gioco. E io purtroppo, penso che questo difetto qui del giocatore blu che fa le stesse cose ci sia solo nel caso in cui ci sia qualcuno che dà degli ordini. sì, anche perché non penso che una persona voglia passare tutta la sua partita volontariamente a non fare niente praticamente, a riscaldare Esatto. la sedia. Comunque, Ghost Stories, purtroppo, essendo un cooperativo di vecchia scuola, ha quella. Pericolo lì, cioè il pericolo del leader non è sempre incombente se c'è quel giocatore al tavolo. Solo nei cooperativi di nuova generazione come Dead of Winter, dove ci sono meccaniche di collaborazione un po' più particolari, non si crea un leader perché diciamo ognuno va per la sua strada ma si va tutti assieme. E quindi Ghost Stories può soffrire il leader parecchio anche, soprattutto se sei un giocatore esperto e tutti novizi. Però passiamo alla prima espansione, ovvero White Moon. White Moon, uscita direttamente l'anno dopo, è secondo me fondamentale per giocare a Ghost Stories. Allora, spiegare il gioco a un novizio diventa molto difficile perché le regole sono tantissime con White Moon, però il gioco diventa completo. Sì. Allora, cosa abbiamo in più? Abbiamo in più gli abitanti del villaggio. Ogni tessera contiene tre abitanti del villaggio. Che possono essere uccisi dai mostri e si danno dei malus se muoiono. Se li salviamo, invece si danno dei bonus. Allora, per salvarli c'è una tessera che conterrà una miniatura di un portale. Durante il movimento, i nostri taoisti potranno trasportare assieme a loro un abitante seguendo le regole dell'ammassamento degli abitanti, ovvero ce ne stanno tre per casella, non possono stare in caselle infestate e così via. e con un'azione possono lanciarli nel portale e quando un'intera famiglia è stata salvata, perché sono famiglie da 1, 2, 3, a seconda di quanto è difficile salvare la famiglia, il premio è più goloso, ci verrà dato un premio. Mentre ogni membro della famiglia che muore dà il malus, ad esempio la famiglia Wu, ovvero i discendenti di Wu Feng, ogni volta che muore un membro della famiglia Wu, che sono marito e moglie, se non sbaglio, viene evocato a caso un'incarnazione di Wu Feng dal mazzo dei boss non scelti, quindi dovremmo affrontare durante la partita dei boss, per fare un esempio. E questi sono gli abitanti. Poi vengono aggiunti nuovi tipi di mostri, ovvero i divoratori. I divoratori, ogni volta che si attiva la plancia del giocatore che ha un divoratore scoperto, si mangia il primo abitante che si trova davanti, lo manda al cimitero e si attiva il malus. Giusto, c'è anche la tessera la plancia del cimitero. Quando la plancia del cimitero è piena, abbiamo perso. Non mi ricordo quanti abitanti può contenere prima di arrivare alla sconfitta, forse 12, una cosa così. Non lo so. Poi, cos'altro c'è? C'è su lì. Allora, per contrastare tutte le cose negative aggiunte, c'è anche una cosa positiva. Vengono aggiunti quattro pilastri agli angoli della plancia e quattro cristalli e la miniatura di Suli. Suli è questa sacerdotessa che contrastò Wu Feng quando era in vita e adesso è un fantasma che protegge il villaggio. Ogni qualvolta noi dobbiamo tirare il dado maledizione, si infesta una tessera del villaggio, muore un abitante, il giocatore a cui è successa questa disgrazia nel turno può piazzare su lì davanti a un mostro o in una plancia. Anche se muore un taoista, mi pare. Forse sì, questo non me lo ricordo, però può darsi. No, se muore un taoista no, perché è il giocatore che fa il turno, quindi il giocatore che muore non piazza su lì. Quindi piazza su lì davanti a un mostro, quel mostro ha la sua abilità divorare o camminare, oppure le altre che possono avere, bloccata per un intero giro, fino a che non torna di nuovo il giocatore, poi su lì se ne va. Se viene posizionata vicino a un cristallo, vicino a un piedistallo, piazza un cristallo sul piedistallo. Quando i quattro cristalli sono posizionati nei quattro piedistalli, si attiva la fase della barriera lunare, ovvero una fase in cui tutti i giocatori fanno un esorcismo di massa sulla loro plancia, quindi si svuota tutto più o meno. E almeno si spera che vada così. Poi, altre cose che vengono aggiunte dall'espansione, in questo momento mi sembra che non ce ne siano. Però fidatevi, con gli abitanti, camminatori, divoratori, veramente il gioco è completo così. Non ho detto una cosa importante: i mostri cosa fanno? Allora, i mostri, quando vengono pescati, hanno un effetto d'entrata, un effetto tutti i turni, un effetto di morte. Alcuni hanno tutti e tre, alcuni ne hanno uno, alcuni ne hanno due. Allora, l'effetto di entrata si risolve appena il mostro entra. Ad esempio, ci sono dei mostri con uno di vita che appena entrano evocano un altro mostro. Poi l'effetto che fanno tutti i turni lo fanno tutti i turni, quando si attiva la plancia del giocatore che ce l'ha davanti. E poi c'è l'effetto di morte che a volte è un premio, a volte un malus, se si ha quando un giocatore riesce a esorcizzarlo. Ora, l'ultima espansione, andiamo, ovvero Black Secret, che è uscita molti anni dopo Ghost Stories, Black Secret del 2012, mi sembra. Cosa aggiunge? Allora, Black Secret aggiunge un giocatore in più, ma questo giocatore in più controllerà Wu Feng. No, è del 2011 Black Secret, ok. Quindi è uscita 2 anni dopo a White Moon. Allora, il giocatore che controlla Wu Feng ha veramente tante cose da fare. Infatti, Black Secret ha molti componenti. Allora, praticamente, cosa cambia? Quando entra un mostro, non è più il giocatore di quel colore a decidere dove piazzarlo, ma è Wu Feng. Wu Feng con quel mostro può fare 3 cose. Allora, può piazzarlo normalmente, però nella plancia del giocatore di quel colore, ma dove vuole lui. Mentre prima i mostri potevano essere messi in modo strategico, ad esempio i camminatori li mettiamo al centro in modo che così facciano spaventare gli abitanti e li mandino nel portale, per dire. Adesso è Wu Feng che lo decide dove mettere, se è al centro, a destra o a sinistra. Poi il mostro può essere sacrificato a seconda del suo colore, per lanciare una maledizione, oppure il mostro può essere sacrificato a seconda dei suoi punti vita per evocare un servitore di Wu Feng. Allora, abbiamo una pianta aggiuntiva che sono le catacombe. Le catacombe sono speculari al villaggio, sono è una griglia grande come il villaggio, con grotte colorate in cui ci sono pile di tesori sepolti. In mezzo a questi tesori, in fondo alle pile, ci sono tre filatteri che contengono lo spirito di Wufeng. Una volta che i servitori avranno recuperato lo spirito, Wu Feng entrerà come miniatura nella plancia e sarà una cosa disastrosa, perché praticamente dove va uccide tutti in festa. Però è quasi impossibile riuscire a evocarlo prima della fine della partita, perché bisogna avere molta fortuna. I servitori di Wu Feng sono tre miniature. A seconda di quanto sono forti di vita e di effetto, costano di più in evocazione, quindi per evocare il servitore più grosso che ha 3 di vita bisogna sacrificare un mostro di livello 4, invece che metterlo in gioco tu lo sacrifichi. Questi servitori gireranno nelle catacombe e scaveranno per cercare il filatterio. Nei primi oggetti che troveranno ci saranno cose positive per i taoisti, quindi all'inizio Wu Feng è un po' rallentato perché o trova pezzi di Buddha che esorcizzano direttamente il servitore che va rievocato, oppure trovano un mantra di sangue che dopo vedremo che aiuta i taoisti. Invece lanciare le maledizioni. Le maledizioni sono una scorta di maledizioni molto forti a disposizione di Wu Feng, che sono divise per livello. Ci sono di livello 1, 2, 3 e 4. La plancia dove posizionare le maledizioni è a forma di piramide. Per poter lanciare una maledizione di livello 2 bisogna aver creato una base con due maledizioni di livello 1, per dire. Quindi la piramide va componendosi sbloccando i livelli successivi. Ad esempio, per lanciare l'unica maledizione di livello 4 che sta nella piramide bisogna aver lanciato tutte quelle sotto che hanno creato la base per posizionare quella di livello 4. Una volta completata la piramide si refrescia e si ricomincia dal livello 1. Le maledizioni sono veramente forti e danno veramente fastidio ai giocatori. Sono quelli che... Ti fermo 2 secondi, io mi assento un attimo, vai pure Le maledizioni sono quel colpo di grazia che aspetti, tipo c'è un giocatore che è rimasto uno di vita, oh ma guarda, questo turno ti ammazzo. Wu Feng può essere veramente cattivo. Poi, altra meccanica contro i giocatori. Abbiamo gli scheletri, che non sono niente di esagerato, sono questi token che possiamo evocare come sostitutivi dei fantasmi e che semplicemente non sono affetti dagli effetti che ucciderebbero, sposterebbero, farebbero male ai fantasmi. Loro sono mostri incolore che vanno esorcizzati normalmente, quindi un taoista deve prendere su e andare lì apposta per uccidere lo scheletro. Dà fastidio per questo, perché è un tappabuchi. Poi, cos'altro abbiamo? Abbiamo anche due cose positive per i taoisti. Allora, abbiamo i mantra di sangue e la fratellanza. La fratellanza è molto semplice: quando un giocatore rimane uno di vita, ottiene questo token che gli garantisce di poter utilizzare nel suo turno, al posto della sua abilità, quella del giocatore di fronte a lui. Quindi c'è questo scambiarsi le abilità quando c'è uno di vita. Invece, il mantra sono queste carte in cui, quando i giocatori perdono punti ferita, i ki, i chi, o chiamiamoli come vogliamo, possono metterli nei mantra. I mantra hanno un costo di C per essere attivati. Quando raggiungono questi riserva sopra di essi, si attivano e fanno effetti molto positivi per i taoisti. Quindi sono la controparte delle maledizioni e si attivano abbastanza passivamente perché i giocatori perdono vita continuamente. In questo caso, però, la perdita di vita è favorevole perché appunto attivi mantra. Poi ci sono altre regole aggiuntive che non andiamo a vedere, come alcune abilità nuove dei mostri che possono bloccare tessere del villaggio e cose così, le scale per poter scendere nelle catacombe e combattere i servitori. Passiamo alle promo e poi chiudiamo. Allora, le promo di Ghost Stories. Abbiamo una promo completamente for fun, ovvero i, come si chiamano? Adesso il pacchetto completo non me lo ricordo. Comunque sono Steven Seagal, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris. Queste come incarnazioni di Wufang. Sono delle promo for fun fatte per le fiere e si possono comprare dal sito della Repos. Una cosa molto positiva di GhostStories è che sul sito Repos, a prezzo molto molto contenuto, potete comprare tutte le promo, mentre alcuni siti italiani vi vendono le promo di GhostStories a prezzi mostruosi, considerando che le promo loro le hanno avute gratis. Quindi abbiamo questi boss for fun. Una volta abbiamo combattuto sia con Van Damme che con Bruce Lee, molto divertente. Poi abbiamo i Band of Brothers, che sono dei nuovi mostri con delle abilità molto fastidiose da poter aggiungere al mazzo. E poi abbiamo la torre di guardia come tessera del villaggio. E l'abilità della torre di guardia è che fa rimettere nell'ordine, guardare i primi quattro mostri del mostro dei fantasmi, rimettere nell'ordine che vuoi, e poi prendi un token del colore che vuoi, molto, molto buona, non ha effetti negativi. E poi c'è la famiglia da quattro personaggi, perché la famiglia massima è da tre, qui c'è una famiglia da quattro. Quando salvi due dei suoi membri, la famiglia Macho, ottieni o l'elmo o gli stivali. Quando salvi anche altri due, ottieni l'oggetto che non hai preso. Quindi c'è una famiglia da 4 abitanti e 2 nuovi artefatti. E poi abbiamo la promo, scusate, che aggiunge due nuove meccaniche, due modalità di gioco nuove: Grey Roots e The Cursed Children. Cursed Children, da giocare esclusivamente con White Moon, dà degli effetti negativi in più quando muoiono tra gli abitanti i bambini delle famiglie. E Green Root invece dà effetti negativi in più quando entrano i mostri verdi. Wufang è essenzialmente legato al verde e in un sacco di occasioni verrà usata la regola ribaltare, che è veramente fastidiosa. Con Green Root praticamente i giocatori si ribaltano sempre. Ok, questo era Ghost Stories, un gioco secondo me magnifico, che però, come ho detto prima, non piace ai molti per questi motivi di fortuna e ripetitività che ci può essere se si gioca in modalità competitive. L'espansione White Moon è fondamentale per me. L'espansione Black Secret mi piace da morire, fare Wufang, però devo dire che non è per tutti i giocatori. Diciamo che Black Secret ci sta quando si è in 5 tutti esperti e si vuole giocare, allora sì. E Ok. il costo del gioco siamo sui 40 euro ogni scatola, quindi prenderlo tutto sono 110-120 Più o meno come un ciclo adesso, bene o male. euro. Sì, più o meno. Invece con le promo, io le ho comprate tutte, con le spese di spedizione in Italia, con meno di 20 euro te la cavi, dai. A meno che non compri i dadi sono la cosa più costosa forse. I dadi fighi promo. Sì. Ok. Ok, va bene, basta. Chiudiamo perché siamo andati per lunghe. Sì, andiamo in chiusura, via. Andiamo in chiusura. Allora, andiamo ai saluti finali. Allora. Siamo a venerdì. No, scusate, siamo a giovedì, noi che registriamo. Giovedì 29 e tra 2 giorni, sabato 1 ottobre, saremo a Empoli Games finalmente. È un mese che continuiamo a dirlo, ma ci saremo. A Empoli Games, dove porteremo una valanga di giochi di miniature. Vuoi fare la lista? Mice and Mystic, Spectre Ops, Titan Race, Arcadia Quest, Thanauser, Mansion of Madness. Mansion of Madness, e poi chi c'è? Ci sono E forse basta. Ok. Flashpoint, Fire Rescue e i tuoi esclusivi. E le mie esclusive. Tutti dipinti, signori, tutti dipinti. Forse Mansion of Madness no, perché non è la mia copia, ma gli altri giochi li ho dipinti tutti io. Quindi sono tutti dipinti. Questo non è importante. Quindi veniteci a trovare dalle 9 fino alle 7 di sera a Empoli, al Palazzo delle Esposizioni. È gratis l'entrata. Per giocare con noi di Area Games. Saremo circa 8-9 dimostratori, quindi è un sacco di tavoli. Per gli appuntamenti successivi con Area Games per le fiere vi aggiorneremo. La prossima settimana abbiamo una riunione in cui faremo il calendario degli eventi. Mentre tutti i venerdì ci trovate al Bar President Park in Viale Roma, zona Ronco, poco prima di Forlimpopoli, vicino alla boschetteria Dumat. Tutti i venerdì sera dalle 9 per giocare nella nostra associazione fantastica di giochi da tavolo. Tutto gratis. Dunque chiudiamo qui, perfetto. Con questo episodio, sesto episodio, che siamo andati per le lunghe, chiudiamo. Saluti da Pietro e Claudio. Tutti dipinti, venite a vedere. L'uno, ci vediamo. Ciao ciao. Come dicevano nella pubblicità del Kinder una volta, dipinti a mano. Ok, Dipinti a mano, ciao. signori, ciao. Ciao.